state tutti zitti quando rappo io. Niente brusio, non mi credo Wayne Bruce io. Il rap è tanto tuo quanto mio, ma t'assicuro che sono il fatto mio e non mi credo mica un dio. Senti ciò che ti propino, non mi vanto, ma son qui per dare il bianco come un imbianchino. Tu sei qui per fare il salto in banco e manco ci sei riuscito. Vuoi riempirti piatto, ti prendi uno scarto e buon appetito. Amico, ma ci fai, ci sei? Forse ti han comprato la tua dignità su eBay. Forse ha constatato che non sai manco chi sei e che credi di saperlo, ma io non direi. Mi sta sul cazzo poi tutta questa gente che si finge onesta e mente, e onestamente non capisce niente, ma niente di niente. Sai che gusto c'è a fingersi differente. Io vedo cose assurde, io vivo realtà assurde. Racconto senza sconto tutte le mie paturnie. Un minuto di silenzio per le idee defunte. E meno male che ci sono ancora idee disgiunte. Dico meno male perché siamo al punto che avrei una macchina attaccata che penserà per te. I cervelli tutti spenti non si accendono perché è comodo non avere più problemi per sé. Mi affaccio al balcone, case su case. Scrivo ogni canzone, frase su frase. Affronti i miei problemi, fase per fase. Chiedo anche aiuto, se il problema permane. Immagino il futuro e il mio cervello poi si stoppa. Ho paura che si rompa, se il mio cuore si racconta. Con la penna sulla destra mo' di spada. Con l'incastro che dilaga, sbaglio sempre ma sbagliando poi si impara. Cade impara, quei ricordi che riaffiorano. Il presente e il passato che veloci poi si sfiorano. Intanto nella testa mille indecisioni. Non c'è mai cosa corretta, ci sono sempre imprecisioni. Combatto battaglie tutte senza armi. Con chi prova a disarmarmi non posso distrarmi. Temo tutto, anche i pericoli distanti. Tacchi dentro al diavolo anche se sta tra i santi. Lo faccio più per me che per la gente. Tanto uno si fa tanto il culo e non riceve niente. Davvero, e mi dispiace tanto dirlo. E io ci ho messo un bel po' a capirlo. Occhi sempre aperti, non siamo abbastanza esperti per capire chi ci guarda con un pugnale tra i denti. Poi fai come vuoi tu, dammi ragione o torto. Io nei miei 18 ho già capito molto. Viviamo in un posto che annulla i valori, dove non c'è cash anche se lavori. Un posto che spinge a stare da soli, tanto non riesci anche se provi. Viviamo tra errori, vediamo gli orrori, vediamo le gioie, mica i dolori. Ridipingiamo l'ambiente utilizzando i nostri colori. Un sorriso basta a migliorare stati d'animo. Ti ho sentito, dici che sei bravo ma mi sa di no. Fastidioso come dopo il bagno a mare il salino. Uccido con le rime, non sono magnanimo. Troppe cose da ricordare, il mio cervello sta per scoppiare. Un giorno mi sveglio e mi dimentico di respirare. Ti pensi che io scherzo ma è una verità scomoda. Vuoi togliermi di mezzo? Mi dispiace, non mi tolgo da qua. Sulla traccia occhio perché ne do tante. Faccio fuori tutti come un negoziante. Sono un aereo in fase decollante. Non mi piaci, non ti do rispetto né contante. Ami i miei periodi in cui sono infottato. Malato del rap, mai disinfettato. Dai problemi miei mi sono disincastrato. Essere me stesso non l'ho mai disimparato. Sono avanti metri, a te non ti vedo. Cerco chi ha ucciso la musica come col Cluedo. Senza le persone giuste come facevo. E senza le spinte chissà se poi cadevo. Mente malata, il mind. Scrivo quasi sempre in freestyle. Io continuo, tu smetti, ci stai. Se ti insulto sai dove mi stai. Non ascolto tutti voi, siete solo fanfaroni. Use your illusion come Guns N' Roses. Siamo animali non normali ma strani. Io sono architetto di castelli mentali. Ho un ricordo vivido di qualsiasi livido. Ma non mi tiro indietro in un momento critico. Nel nostro paese modalità crisi on. Metto nostalgia come un carillon. Sei scarso, sucker, ti spezzo, cracker. Io contro me stesso, Kramer. La musica mi dà calore tipo l'estate. L'unica motivazione per cui non tiro testate. Andate a fare in culo se mi detestate. Se parlate dietro e dopo mi cercate. Se avete torto è perché non ragionate. Se giocate sporco e neanche vi sporcate. Sento solo le parole ma non vedi i fatti. In questo buio io vorrei vederci come i gatti. Dico solo verità proprio come i matti. Vi rimando a casa al contrario degli strazi. Uno fra tanti, non posso calmarmi. Né dammi frate, posso solo cantarmi. Se tocchi questa roba, fallo coi guanti. Stata delusioni e tristezze costanti. Scrivo con la penna, oppure col PC. Te ci provi ma non riesci a colpirci. Spacchiamo tutto, non sappiamo che dirti. Sei come un colore e lento ti stingi. Hai giorni contati, calendario. Ti faccio vedere le stelle, planetario. La mia mente ti disprezza, se tu speri che io cada. La chiudo in bellezza, dopo questa tutti a casa. Ciao.